L'oroscopo da Favole, dicendo della Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Il tuo destin per quella stessa via per cui lo fuggi a te corre d'incontro. Un padre di sì caldo e intenso affetto amava un suo figliuol unico in terra, che sulla sorte sua quanti indovini e sonnamboli vanno per la via facea cantar. Uno di questi un giorno annuncia che doveva il giovanetto fino ai 20 anni andar molto guardingo dell'incontrar leoni, oltre il qual tempo potrebbe di sua vita andar sicuro. Il buon padre, per far che mai pericolo di tal sorta facesse al suo diletto eterno danno, in un palagio il figlio tosto rinchiuse e proibì che il piede i mettesse di fuori. A far meno triste di quel lucente carcere il soggiorno, entro il palazzo era un giardin, e molti vi correan fanciulli, e in giochi e in salti, e in spassi e in chiassosa compagnia, allegramente gli vi era rinchiuso. Sulla caccia gli fu con odio e tetro color descritta, come cosa indegna d'un uom gentil. Che importa? Ha mai parola trasformato dell'indole il metallo? Onde avvenne che il giovane alle sagge avvertenze sentì abbalzar nel petto un desiderio di battaglia, e sempre voglioso, irrequieto, in preda a un caldo sogno voleva discendere nei campi e combattere le fiere. E più fremea quanto sentia più stringere le catene, ma l'oroscopo a lui stava davanti con le fiere parole. Era il palagio di belle statue adorne e di pitture, che ritraevan cacciatori e cacce da animali e d'alpestri paesaggi. Onde più s'accendea l'anima al mesto giovincello, dipinto era un leone, fra l'altre belve, a cui rivolto un giorno. «O mostro», disse, «o mio fatal nemico, per cui viver mi tocco oscuro e vile in queste mura». E sì dicendo, acceso d'ira improvvisa, sul leon dipinto si scaglia e sfonda la dipinta tela. Ahimè, nel muro era un acuto chiodo dal dipinto velato, e tal fu il colpo che a mezzo il pezzetto il garzoncel trafisse, che cadde in terra del suo sangue intriso. Invan fu richiesto ad Esculapio il balsamo che le ferite tenero richiude. Il caro capo abbandonò per sempre e morì per le stesse arti trafitto che salvarlo dovean dal suo destino. Fine della favola, l'oroscopo. Questa registrazione è di dominio pubblico.